get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte, ben ritrovate. Quella che sta per iniziare è la nostra 224esima trasmissione e come sempre, ormai da quasi 12 anni a questa parte, sì, perché la nostra prima trasmissione è andata in onda nel 1997, ci piace ricordarlo ogni tanto. Come sempre dicevo, in questi primi giorni di luglio facciamo una trasmissione nella quale da una parte affrontiamo argomenti che secondo noi meritano un po' di attenzione e qualche puntualizzazione in più, che noi del CLR li leggiamo col nostro occhio di femministe e lesbiche. Dall'altra parte invece ci prendiamo il gusto di augurare a tutte voi delle buone vacanze e con il piacere che contraddistingue le nostre vite, vi indichiamo una serie di iniziative lesbiche e femministe che possano accompagnarvi durante gli afosi giorni estivi. Ci teniamo anche a dirvi, per correttezza, che la trasmissione di oggi, cioè quella che state ascoltando ora, è stata in realtà registrata in precedenza perché noi avevamo dei problemi organizzativi, ma nonostante la modalità con la quale verrà trasmessa, noi che l'abbiamo realizzata, e cioè io che sto parlando in questo momento, cioè Caterina, Lucilla e Rosina, saremo comunque in radio, solo che saremo impegnate in un'altra riunione con le compagne del martedì. Sarà in ogni caso attivo il nostro cellulare per i messaggi, di cui insomma vi ricordo il numero, che è 338 41 46 682, e quindi potete farci sapere cosa pensate, se vi piace questa trasmissione, insomma quantomeno farvi sentire. Bene, credo di avervi detto tutto, allora adesso ascoltiamo un breve stacco musicale e poi inizieremo con la trasmissione vera e propria. Allora, buon ascolto. I want to thank you for giving me the best day. Allora, riprendiamo dopo il brano musicale la trasmissione e stasera vorremmo parlarvi della situazione in cui il paese sta precipitando grazie alle gesta dell'ineffabile cavaliere con molte macchie, a dire il vero, tanta faccia tosta e non ci vogliamo esprimere sulla paura, perché secondo noi un po' comincia ad averla. Le vicende relative all'utilizzo finale di Villa Certosa e Palazzo Grazioli sono ormai note a tutte e tutti, ma non per questo sarà meno interessante ripercorrerle insieme. Nonostante il gran parlare di molta parte di cittadine e cittadini, nonché di politici, sull'aspetto privato di questa situazione, ci sembra invece che ci sia molto di pubblico che si lega con la politica dell'apparire. Ormai da anni quel che conta non è la sostanza del proprio agire politico, ma quanto e come questo agire viene reso visibile. Non ci si stupisce, ad esempio, che il Presidente del Consiglio agisca come un comune puttaniere all'interno di ruoli e luoghi istituzionali, ma piuttosto ci si indigna per l'attenzione mediatica che potrebbe esporre il Paese a critiche internazionali, danneggiandone, come ha fatto Schifani, l'immagine. Su questa falsa riga il problema inevitabilmente si sposta su un piano diverso. La responsabilità passa dall'utilizzatore finale, così come si è espresso l'avvocato Ghedini, alle donne, anche minorenni, che sono state invitate nelle residenze del Presidente del Consiglio per soddisfare le esigenze dell'imperatore, così come ha detto Veronica Lario. A noi sembra che questo meccanismo sia pericolosamente simile, per non dire identico, a quello che si utilizza quando si parla di prostituzione di strada, e cioè non si colpisce la domanda, ma l'offerta, che pure è generata dalla prima. Il mestiere più antico del mondo non è la puttana, è il magnaccia, e genera veramente sorpresa ed anche una buona dose di schifo, passatecelo, che i ben pensanti di questo paese siano ben disposti a sparare a zero nei confronti delle prostitute che lavorano in strada, mentre sono altrettanto lesti a perdonare e giustificare i clienti, ma soprattutto gli esponenti di quel potere che agisce nel medesimo modo. A questo punto ci faceva piacere leggere un documento che è stato pubblicato sul DVF nero numero 23 e 24 dell'85 di Adrienne Rich, dal titolo Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica. Oggi più che mai sta diventando quasi profetico questo documento, che a proposito dei sistemi di controllo e di accesso alle donne dice: usarle come oggetto di transazione maschile, l'uso delle donne come doni, il prezzo della sposa, il lenocinio, i matrimoni combinati, l'impiego di donne come intrattenitrici per facilitare gli affari maschili, cioè la moglie padrona di casa, le cameriere vestite bene per il titillamento sessuale maschile, ragazze squillo, conigliette, geishe, segretarie. Il ruolo di persuasore delle coscienze è svolto dalla pornografia, soprattutto se si considera il potere di questa industria plurimiliardaria di diffondere immagini sempre più sadiche e degradanti della donna. Ma anche la cosiddetta pornografia softcore e la pubblicità presentano la donna come puro oggetto sessuale, priva di spessore emotivo e di individualità o personalità. In pratica, una merce sessuale a disposizione dei maschi. Il messaggio più distruttivo lanciato dalla pornografia e dalle donne così come appaiono in televisioni oggi rifatte e siliconate, ci sentiamo di aggiungere noi del CLR, è che la donna è la naturale preda sessuale dell'uomo e che ama esserlo, che non vi è incompatibilità tra sessualità e violenza e che, per le donne, il sesso è masochista, la degradazione è piacevole e la violenza fisica è erotizzante. Dopo queste parole di Adrienne Rich, a noi del CLR, lesbiche e femministe, ci viene da fare un'ultima considerazione. Il comportamento di Berlusconi, dei suoi accoliti e dello staff dei suoi avvocati riassume il pensiero dell'uomo comune di strada, dell'uomo comune istituzionale, vale a dire il pensiero patriarcale sulle donne. Trasformata in brava donnina. Il re ne comanda una, madama d'ore, il re ne comanda una. Ti compra la Barbie con i vestitini e di cicciobello con i paciocchini, le bambole assurde col piantagettone e un disco che gracchia una brutta canzone. Che cosa ne vuol fare, madama d'ore, che cosa ne vuol fare? Mi sembri un maschiaccio, non stare lì fuori, aiutami invece a fare i lavori. Non alzar la gonna, non dir parolacce, e i baci ti compran più delle minacce. La vuole maritare, madama d'ore, la vuole maritare. Tua madre moderna, perciò si sbilancia, ti dice che i bimbi stanno dentro la pancia, ti parla del seme, del fiore, del frutto, ma un po' troppo presto per dir proprio tutto. Con chi la maritereste, madama d'ore, con chi la maritereste? Come fad uscire si può anche spiegare, ma ti resta il dubbio di come fa entrare, perché nel parlarti del frutto e del fiore si dimenticò di spiegarti l'amore. Col principe dei fiori, madama d'ore, col principe dei fiori. È con questo dubbio non bene chiarito che tu a 16 anni prendesti marito. E il gioco riprende con bambole nuove, però cicciobello stavolta si muove. Scegliete la più bella, madama d'ore, scegliete la più bella. Che bella bambina, somiglia alla nonna. Come sarà bella quando sarà donna. Ma come sorride. Ma come graziosa! Ma come sta bene vestita di rosa! Avrei avrete sicuramente riconosciuto la voce di Giovanna Marini che cantava O quante belle figlie, mentre prima di questo pezzo musicale abbiamo ascoltato Daido che cantava appunto Thank You. E vogliamo continuare a questo punto con la nostra trasmissione. Vi leggeremo un comunicato del 29 maggio di quest'anno dell'Unione Donne in Italia, prodotto da Anna Maria Spina e Giovanna Crivelli del Coordinamento Nazionale dell'UDI. A chi piace questa politica, questo utente finale, questo linguaggio, questa assoluta mancanza di rispetto, questa violenza verbale, sicuramente non piace all'UDI. Via il velo della ipocrisia nostrana, altro che la sacralità della famiglia, rispetto della vita e della dignità, altro che fare l'amore, altro che un modo come un altro per prendere l'amore che spetta di diritto. Poveri uomini ricchi, potenti e innocenti utilizzatori finali. È una buona occasione per ricominciare a porre attenzione alle parole che ci vengono lanciate contro, a noi e a tutti. È un'ottima occasione per ricominciare a non tollerare più questa lapidazione verbale dove le pietre sono indegni stereotipi, vecchi o nuovi come questo, del sesso mass market. È un ottimo momento per svelare con le nostre parole il trucco e la violenza che sempre esercitano coloro che si arrogano il diritto di perseguitarci, dicendoci ogni momento tutto il peggio che gli passa per la mente. Per non diventare sorde e cieche, per non dover più tollerare linguaggi o comportamenti indegni, così apprendiamo da un'intervista che colui che riceve è l'utilizzatore finale, ma a quest'uomo, all'intervistato, se uomo è, bisognerebbe chiedere colui, perché al maschile? Colui in questo caso o in generale? Come a dire che a ricevere è sempre un uomo? Che sta a significare che a dare è sempre una donna? Domanda pleonastica. Chi riceve? Chi riceve che cosa? Un utente non può ricevere un corpo, però può usarlo, magari consumarlo come un gelato o un dopo barba. In questo caso, evidentemente, l'utente finale è colui che riceve il servizio. Finalmente arriva la parola vera, servizio. Ma non basta, sempre dalla stessa intervista ci viene ribadito, con pretesa, generosa ingenuità, che per fare bella figura quando ci si presenta a casa di qualcuno potente, ci si va con una bella donna a pagamento. E così l'immaginazione va alla moglie, se c'è, o alla fidanzata, a casa naturalmente, a fornire nell'ombra un servizio gratuito. Altro che amore, altro che valore della famiglia. E noi diciamo non solo che vergogna, che affronto, ma anche che indicibile tristezza, che senso di morte. Infine veniamo informate dall'intervistato che un uomo potente e perciò stesso bello e simpatico potrebbe avere donne gratis in grande quantità. E così l'immaginazione va agli scaffali del supermercato, scaffali e scaffali di tanta bella merce in quantità, tutta da comprare, tutta da utilizzare, tutta da consumare. Che altro c'è da dire? Tranne che finalmente non siamo più solo noi a significare che ci considerano merce, che vivono il nostro corpo come lo strumento di un servizio, noi disperatamente in cerca di luce nei fumi del lavaggio del cervello che ci stanno facendo da ogni parte e con ogni mezzo da decenni ormai. Queste parole brutali le dicono loro, a noi e a tutti, spudoratamente, in continuazione, loro che i media ce li hanno e li usano. Adesso luce è fatta, circostanziata a missione di colpa ideologica. Grazie, grand'uomo, ci hai risparmiato un lavoro improbo, dilla ancora e dilla tutta, per esempio che dobbiamo stare a casa ad aspettarti, altro che emancipazione e lavoro, che se proprio abbiamo il capriccetto di decidere dei nostri destini facendo politica, ebbene sì, un mezzo c'è, ma dipende da te. A questo rispondiamo che l'UDI e molte donne in Italia hanno raccolto le firme per una legge di iniziativa popolare che detta norme di democrazia paritaria per l'accesso alle assemblee elettive, cioè semplicemente per le candidature nelle elezioni, dentro la campagna 50-50, ovunque si decide. Perciò, per quello che abbiamo detto e fatto, restiamo irriconciliabili a qualsiasi proposta o metodo o decisione o criterio di selezione politica per liste di incarichi che non rispettino tutte le donne. Caro utente finale, dillo che tu e quelli come te e qualche omino potente e ricco in giro c'è. Vi sentite i padroni di tutto, compreso il nostro corpo caduco ma potenzialmente fertile. Caduco perché è finita la funzionalità, niente pensione, niente casa, niente lavoro, niente dignità. E dillo anche che questo corpo potenzialmente fertile deve rimanere sempre usabile, ma l'hai già detto e non avresti dovuto, l'hai nominata una volta di troppo quando l'hai detto di Eluana. Tu suoni la tua tromba, noi suoneremo le nostre campane. Noi diciamo e diremo che la lapidazione verbale è violenza, che non è casuale questo indegno trasferimento del privato peggiore nel pubblico peggiore, che siamo in grado tutte di vedere e capire il valore delle immagini e delle parole, la loro potenza d'urto sulla nostra vita, in casa e fuori casa. che non accettiamo e non accetteremo per nessun motivo subdole violenze aggiunte a quelle che già vergognosamente avvengono fra le mura domestiche, che disonorano gli uomini e feriscono le donne, e fra queste includiamo sordide immagini televisive o sui cartelloni per via, fa lo stesso, e ancora più di parole urlate o sussurrate o cantate o recitate che martellano la nostra mente, la nostra intelligenza, la nostra cultura, la nostra forte sensibilità. Perciò ci stiamo sobbarcando, fin da novembre dell'anno scorso, una staffetta di donne, proprio contro tutti i tipi di violenza domestica o estemporanea, fino al femminicidio, in tutta Italia, comuni, regioni e province. Ma tu, nel frattempo, utente, dilla tutta, rimpiangi il mancipium, vero? Anche quella sembra solo una parola, ma dentro quella parola ci stanno millenni di sottomissione, esclusione e maltrattamenti di donne fino ai femminicidi. Quelli sì erano bei tempi per te, qualche millennio fa però. Abbiamo detto Anna Maria Spina, Giovanna Crivelli del Coordinamento Nazionale dell'UDI in merito alla questione ormai già lungamente dibattuta sulle parole di Ghedini, che ha definito appunto il Premier Silvio Berlusconi un utilizzatore finale e quindi non punibile, in merito appunto alle ormai notissime vicende di Villa Certosa e di tutte le altre allegre compagnie. But all in love is fair. I turn you the cheek, and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human, and I haven't got talking room. But tonight, while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning alive? Can't you see my baby's got another lover? I don't know how I'm gonna survive. Somebody bring me some water. Can't you see it's out of control? Baby's got my heart and my baby's got my mind. But tonight the sweet devil, the sweet devil's got my soul. Aching past, will this night be through? I wanna hear the breaking glass. I wanna feel the steel of the red hot truth. And I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity for that temporary kind. Tell me, how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name? Got my Allora, vi leggiamo un altro appello che ci arriva dalla Libera Università delle Donne di Milano ed è a firma di Maria Grazia Campari, Floriana Lipparini e Lea Melandri. La cosa interessante di questo appello è che loro, queste tre ideatrici, propongono le dimissioni di Silvio Berlusconi e, pur riconoscendo che le semplici dimissioni non siano certo risolutive della situazione politica così brutta che si è venuta a creare nei confronti delle donne, ma pensano che sia un segnale importante, tanto più importante perché così questi loschi figuri si renderanno conto che sono controllati anche da un'opinione pubblica pensante. Questo nuovo appello titola in questo modo: maschilismo di Stato, morte della democrazia, Berlusconi si dimetta. Con questo appello intendiamo richiamare l'attenzione pubblica sulla spirale negativa innescata dai componenti del ceto politico di potere in Italia, dai gesti quotidiani di disvalore verso il genere femminile, si sta attivando un attacco di stampo maschilista contro la stessa integrità delle istituzioni democratiche. In altre parole, si passa da una democrazia incompiuta alla cancellazione stessa della democrazia. Il Presidente del Consiglio è stato colto infatti nel fatto di passare da un utilizzo mercificato di corpi femminili per propri svaghi privati, ma giocati in luoghi destinati ai fini pubblici, alla attribuzione diretta di cariche ministeriali e parlamentari, italiane ed europee, elargite come riconoscimento al fascino fisico delle candidate. Questo comportamento è stato, da ultimo, anche sostenuto da dichiarazioni pubbliche quali «Gli italiani mi vogliono così», «Sono sostenuto da un gradimento al 61%», «Porto con me le veline sulla scena del futuro G8, altrimenti ci prendono tutti per gay». Insomma, potendo, così fan tutti. Riconoscere che l'ampio consenso di cui gode finora Berlusconi vada attribuito in gran parte al fatto di interpretare modi di pensare e di agire patriarcali, radicati nel senso comune di uomini e purtroppo anche di donne, non deve diventare un alibi per lasciare in ombra il pericolo rappresentato dalla sua permanenza in una delle più alte cariche dello Stato. E continua l'appello dicendo: quindi vogliamo dire all'utilizzatore finale di presentazioni femminili che grandi quantitativi di italiane e italiani intendono contrastare questo degrado, al medesimo tempo personale e politico, due sfere implicate da sempre alla modalità di ogni contrapposizione astratta e funzionale al protagonismo storico del sesso maschile. È necessario fermare la pericolosa deriva autoritaria di una società che si presenta incardinata sulla esclusione femminile e sulla diseguaglianza di sesso, di razza, di condizione, e che sta compiendo il passo fatale dalla riduzione al potere oligarchico maschile alla completa erosione degli assetti democratici, violando le pari dignità umana di donne e di uomini, la libera espressione del pensiero, la libera informazione, la libera competizione nella rappresentanza. Chiediamo a chi si riconosce in questo appello di dare avvio ad un movimento che, partendo dalla conoscenza dei fatti, elabori in forma partecipata azioni incisive tese ad ottenere, come atto primo indispensabile per il rispetto di elementari principi di democrazia e di civile convivenza fra i sessi, le dimissioni di Berlusconi e dei suoi fidi seguaci nelle cariche pubbliche. Firmato da Maria Grazia Campari, come dicevamo prima, Floriana Lipparini, Lea Melandri. E un secondo solo, perché dirò anche dove scrivere per poter avere informazioni e soprattutto fare le adesioni. ed è mariagrazia.campari@tiscali.it, lilianamoro@tiscali.it, oppure al sito dell'Università delle Donne di Milano, che è www.universitadelledonne.it. E credo che, insomma, sia un buon, crediamo noi che sia un buon appello. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when quello che andrò a leggere adesso è l'ultimo appello di cui vogliamo dare notizia per questa sera, ed è l'appello di donne alle First Lady dal titolo Non venite al G8 italiano. Siamo profondamente indignate come donne impegnate nel mondo dell'università e della cultura per il modo in cui il presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi, tratta le donne sulla scena pubblica e privata. Non ci riferiamo solo alle vicende relazionali del Premier, che trascendono la sfera personale e assumono un significato pubblico, ma soprattutto alle modalità di reclutamento del personale politico e ai comportamenti e discorsi sessisti che delegittimano con pervasa e ilare sistematicità la presenza femminile sulla scena sociale e istituzionale. Questi comportamenti, gravi sul piano morale, civile, culturale, minano la dignità delle donne e incidono negativamente sui percorsi di autonomia e affermazione femminili. Il controllo che Berlusconi esercita sulla grande maggioranza dei media italiani, in spregio a ogni regola democratica, limita pesantemente le possibilità di esprimere dissenso e critica. Risulta difficile, quindi, far emergere l'insofferenza di tante donne che non si riconoscono nell'immagine femminile trasmessa dal Premier e da chi gli sta intorno. Come cittadine italiane, europee e del mondo, rivolgiamo un appello alle First Lady dei paesi coinvolti nel prossimo G8 dell'Aquila perché disertino l'appuntamento italiano per affermare con forza che la delegittimazione della donna in un paese offende e colpisce le donne di tutti i paesi. Questo appello è firmato Chiara Volpato, professore ordinario Università di Milano Bicocca, Angelica Mucchi Faina, professore ordinario Università di Perugia, Anne Maas, professore ordinario Università di Padova, Marcella Ravenna, professore ordinario Università di Ferrara, ed è datato il 22 giugno 2009. Questo appello è stato firmato anche da Margherita Hack e da Ciamaraini e hanno aderito e già sono state raccolte più di 2000 firme. Questo significa 2000 adesioni, oltre ad una grande eco internazionale nei confronti dell'appello promosso dalle 4 docenti universitarie che vogliamo qui ricordare: Chiara Volpato, Angelica Mucchi Faina, Anne Maas e Marcella Ravenna. L'appello è ospitato da MicromegaNet e tutte potete e siete invitate a firmarlo così come abbiamo fatto noi. È rintracciabile scrivendo Micromega Appelli Micromega. E questo era proprio l'ultimo appello, ora ascoltiamo una canzone. E si tratta di Kim Carnes con il brano Bette Davis Ace. Hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes, she'll turn her music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Bette Davis eyes. Tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Bette Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Bette Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice until you come out blue. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Gli appuntamenti. Allora, vi avevamo detto che vi avremmo dato degli appuntamenti per l'estate e iniziamo con degli appuntamenti a breve termine. Intanto alla Casa Internazionale delle Donne in Via della Lungara e in Via San Francesco di Sales ci sono intanto tre primi appuntamenti a cura dell'area cultura e quindi organizzato praticamente da Zora Nesso Larsson con un contributo della Commissione delle Lette del Comune di Roma e sono giovedì 9 luglio alle ore 21 prende il via la rassegna di arte contemporanea Dislocazioni, rassegna di gesti, immagini, suoni di donne. Il mondo è sconfinato in se stesso e i limiti che lo descrivono sono in movimento e molte sono le nuove dislocazioni che lo trattengono. In uno spazio temporale circoscritto ed in un unico luogo, artiste diverse costruiscono insieme un viaggio che raccontano che è racconto ed occasione per interrogarsi sul mondo e con lo sguardo di ciascuna coglie e restituisce. Il programma è questo, quindi giovedì 9 luglio ore 21, gruppo Alena di Anuska Brodak, speriamo che la pronuncia sia buona, Abiti Giganti, alle Nine Installazioni, quindi è uno spettacolo, performance di danza e musica dal vivo. Venerdì 10 luglio, sempre alle ore 21, Gabriella Germandi, regina di fiori e di perle, spettacolo scritto e interpretato da Gabriella Germandi, musiche originali dal vivo di Gabin Dabire. Sugli stranieri mi dispiace, ma non sono molto, molto dotata. Sabato 11 luglio alle ore 21, questo lo so dire bene, è il Mira Brass di Clara Berna, Ritmi Ancestrali, spettacolo di flamenco. Quindi per avere informazioni ulteriori potete andare a visitare il sito della Casa delle Donne e quindi da lì prendere delle ulteriori informazioni. Poi passo il microfono a Rosina che vi leggerà qualcosa. E allora il Fuoricampo Lesbian Group è felice di invitarvi e di invitarci anche a noi, ma non so se potremo andare, alla terza edizione di Sun Prefer Cake, un festival di corti di cinema lesbico che si terrà appunto a Bologna l'8, il 15 e il 22 di luglio dalle 21.30 presso la manifattura Giardini Lo Russo in via Ludovico Berti a Bologna appunto. Abbiamo il terzo anno d'età per questa rassegna, ad accogliere il festival è ancora appunto la manifattura, cioè un luogo ideale per ospitare questi corti. Sicuramente si tratterà di belle immagini, ricchi contenuti che il cinema lesbico indipendente, in questo caso nella forma del cortometraggio, ci regala ormai da anni, sia con documentari che con video sperimentali o fiction. Un altro ingrediente inserito quest'anno nella scelta della programmazione di Sam Prefer Cake è l'umorismo, l'ironia e l'autoironia. Nell'arco degli anni abbiamo visto registe scegliere l'ironia e l'umorismo e a volte addirittura la comicità per fare satira su tanti stereotipi e abitudini che noi lesbiche abbiamo costruito all'interno della comunità, ma l'ironia risponde anche al mondo esterno e ai suoi drammi. Nella prima serata, quella dell'8 di luglio, ci sarà una retrospettiva dedicata a Nathalie Persillier, una brillante ed eclettica regista molto ironica della scena indipendente europea. Fra i cortometraggi di questa regista, verranno proiettati Bloody Well Done e El Din in der Liebe. Anche io con la pronuncia non sono proprio dotata. Quest'ultimo appunto vincitore dei Teddy Award al Festival di Berlino nel 1997, e infine Sticky Dog o Sticky Dog, che ha vinto numerosi premi nazionali ed internazionali. Mentre invece per le serate successive, quindi quelle del 15 e del 22 di luglio, ci saranno alcuni dei migliori cortometraggi di nuova produzione provenienti da molti paesi, fra cui ad esempio Velocipede di Anne Crimet e dalla Francia, Don't Mess with Texas di Kerry Schrader dagli Stati Uniti, Love Sucks, cioè l'amore fa schifo e sono d'accordo, di Ingrid Jungerman e Sarah Winters, sempre dagli Stati Uniti, Easy Tiger di Alcmini Bura dalla Svizzera, Quarto Cresciente, questo è più facile perché è vicino alle nostre radici linguistiche, di Ana Cabello Padilla dalla Spagna, Gli Italiani, non si direbbe, Truculu Tru di Ilaria Paganelli, Svegliati Miriam di Sara Saietti e Coming Out di Francesca De Isabella, tutti del 2009, quindi recentissimi, e anche ci saranno tre cortissime videopoesie di Luisa Sachs. In più naturalmente qualche piccola chicca dagli anni passati, ad esempio Reservat di Clara Van Gool del 1988 dall'Olanda. E ci informano le compagne di Fuoricampo che ogni serata sarà aperta e chiusa dalla proiezione di un episodio di Lizzi de Lezzi, una serie animata a tematica lesbica creata da Ruud Selwyn e distribuita su internet. Lizzi de Lezzi è diventato un fenomeno non soltanto in Israele dove è nato, ma in tutto il mondo. Quindi vi invitiamo, se potete, se avete voglia, ad andare a Bologna, lo ripetiamo, l'8, il 15 e il 22 luglio dalle 21:30 presso la manifattura. Per avere ulteriori informazioni potete contattare il sito lesbico di Fuoricampo www.fuoricampo.net/sanprefercake/terzaedizione.html. Quindi buon divertimento. E per finire, qui abbiamo quindi tutte queste date per luglio, poi Caterina vi darà altri due siti che potete andare poi a vedere, che solitamente fanno belle vacanze, ma io che so la secchiona del gruppo, facciamo finta che vi voglio parlare invece della scuola politica dell'Udi. Il 3, il 4, il 5 e il 6 settembre 2009 si terranno degli incontri di cui poi potrete prendere ulteriori informazioni sul sito di Udi Nazionale, che vi diremo, e il titolo di questi incontri intensivi è Che ti sei messa in testa? L'ambizione tra politica, sapere e vita pubblica. Inizio giovedì 3 settembre dalle ore 14:15, dove ci sarà l'iscrizione e la distribuzione delle cartelle. E poi via con Pina Nuzzo, che è la delegata dell'Udi Nazionale, che ci sarà già dalle 15 alle 19 del 3 settembre un laboratorio di pratiche e strumenti. Venerdì 4 settembre, ancora Pina Nuzzo dalle 9 alle 13, lezioni, la mia ambizione, nominare gli spostamenti e governare le conseguenze. poi ci sarà la pausa pranzo e dalle 15 alle 19 invece si alternerà Federica Giardini, che è docente di filosofia politica Università Roma 3, insieme ad Angela Lamboglia, Eleonora Mineo, Federica Voci, Raffaella Fiori, Teresa Di Martino. E la lezione è La leva del sapere, mettere a fuoco la propria forza. Sabato 5 settembre, dalle 9 alle 13, Cristina Magnaschi, giornalista. La lezione è Tra onnipotenza e automoderazione. Poi c'è la pausa pranzo e riprende alle 15 fino alle 19 Claudia Mancina, docente di etica dei diritti Università di Roma La Sapienza. La lezione è Il mestiere della politica, rappresentazione e rappresentanza. Molto interessante sembra. Domenica 6 settembre dalle 9 alle 13 e poi la chiusura, applicazione degli strumenti utilizzati nel laboratorio. La scuola è aperta solo alle donne e questo ci fa un piacere infinito. Si terrà a Roma nella sede nazionale dell'UDI, via dell'Arco di Parma 15, tra via dei Coronari e Lungotevere Tor di Nona. Il telefono è 06 68 65 884. La quota di partecipazione è di 60 euro e comprende un buffet di benvenuto giovedì e il pranzo di venerdì e sabato. La quota non è comprensiva dei pernottamenti né delle cene. Le iscrizioni vanno inoltrate a udinazionale@gmail.com entro il 15 luglio. Se volete poi andarvi a informare personalmente, il sito è www.udinazionale.org. Lo ripeto, www.udinazionale.org. Bene, dopo queste premesse di lingua straniera io non posso far altro che adeguarmi alla compagnia dandovi due siti che sicuramente potete andare a consultare, perché generalmente nei periodi estivi fanno delle iniziative molto interessanti e molto gradevoli, ma di cui purtroppo ancora non c'è arrivata comunicazione. Ci arriverà magari tra breve, ma non facciamo in tempo ad inserirla, per cui vi do il sito delle Desiderande di Bari, che solitamente programmano la settimana in masseria, che è www.desiderande.it, desiderande è scritto desiderandai.it, e vi do anche la loro mail, che è info@desiderande.it. E un numero di telefono da poter contattare tutti i giorni dalle 19 alle 22, che è 333-7155-187. L'altro sito che generalmente potete andare a visitare, perché normalmente fanno dei campi per lesbiche, è il sito di Agape ed è www.agapecentroecumenico.org. Penso di aver detto tutto quanto, vi auguriamo delle buone vacanze e proseguiamo con una canzone. E mi sono dimenticata e faccio ammenda all'inizio, quando ho detto i nominativi delle compagne che hanno fatto questa trasmissione, ho omesso, perché non l'ho vista materialmente qui in studio, per cui me la sono dimenticata, quindi chiedo venia, ma Manuela, che è una nostra giovane compagna che ha collaborato alla realizzazione di questa trasmissione. Ok, un brano musicale. Fai fuoco, brucia la casa.